questo è X-Tape. Il mio bro Onibus subit. Zio, è così che va. Simo X, Aleman, Felix. Quando mi guardo allo specchio come se mi guardassi dentro, paura di invecchiare e di non essere contento. Ripenso al valore di ogni singolo momento, lo sento sto calore fino al giorno in cui mi spegno. In questo mondo che orrendo penso a quel poco che ho. Io non sprofondo, sto attento che non è un gioco, lo so. Quando vedo amici con cui son cresciuto rovinarsi, mi fa male sentire che hanno cominciato a farsi. Sto lontano dai falsi, conto amici su una mano. Questa vita prende a calci ma noi glieli restituiamo. Quando stiamo insieme anche su una panchina o due scalini, con due canne e due risate saremo sempre bambini. L'incubo dei vicini che tirano secchiate d'acqua. Stiamo lontani dai casini, bro, ci sono gli sbirri, scappa. Una pacca sulla spalla, anche stavolta è andata bene. Io nei miei più bei ricordi porterò sempre ste scene. Qui, siamo sempre qui finché io vivrò, finché vivo non mi arrendo, anche se questo mondo è orrendo. Ogni mio respiro, ogni singolo momento, finché io vivrò, finché vivo non mi arrendo, anche se questo mondo è orrendo. Ogni mio respiro, ogni singolo momento. Vivo ogni singolo momento, a volte esco dagli schemi. Non esagero, sto attento, voi state sereni. Si alza il mio temperamento e tu zio non mi trattieni. Quando il tuo comportamento raggiunge livelli estremi, vai dove tira il vento su sta barca senza remi. La gente che frequento non fa come questi scemi. Sto con loro e son contento e non penso a tutti i problemi. In questo mondo cruento ti devi porre dei freni. Mi viene esaurimento se sento che te la canti. Il tuo fallimento con conseguenze devastanti. Riesco nel mio intento anche in situazioni pressanti. Senza un riferimento sono andato sempre avanti. Sai che non mento, mi godo tutti gli istanti. Tutti al 100% così da non aver rimpianti. Ogni singolo momento con amici importanti. Finché non mi addormento stappo birre spumanti. Qui, siamo sempre qui finché io vivrò, finché vivo non mi arrendo, anche se questo mondo è orrendo. Ogni mio respiro, ogni singolo momento, finché io vivrò, finché vivo non mi arrendo, anche se questo mondo è orrendo. Ogni mio respiro, ogni singolo momento. Ogni battito, ogni attimo, ogni momento che vivo. So da dove son partito, ma chissà fin dove arrivo. Ho un motivo che mi porta a dare il meglio e non fermarmi. Inseguo il mio obiettivo che è la forza per rialzarmi. Senza armi vado avanti con le mani e con la testa. Questi istanti riescono a calmarmi se c'è la tempesta. Se questa è la mia vita e me la vivo così, io la scrivo sopra un beat di Onibus con Simo X. Aleman è qui, fratelli puro sangue sempre insieme. A brindare su ogni singolo momento andato bene. Situazioni estreme che abbiamo passato e ne andiamo fieri. Ricordo quelle giornate pazze, mi sembra ieri. Sempre veri, sempre uniti anche nei momenti peggiori. È con loro che ho scoperto quali sono i miei valori. Senza rancori siamo così, non cambiamo mai. Ogni singolo momento non lo dimenticherai. Finché io vivrò,